Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Credo, non so, di vero mi sono capitate personaggi e personaggi di una certa bellezza, ma forse come oggi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, forse è un po' inutile che ve lo dica perché in radio non si vede, ma ho veramente davanti una bellezza abbagliante, ho questo privilegio. Però prima di dire il suo nome, di presentarlo, perché tutti lo conoscete, vorrei che si raccontasse attraverso tre aggettivi. Ricercatore. Artista. Bello, quello lo sappiamo, ma no. No, se, il terzo sto lavorando, però è troppo intimo. Non si può dire passionale, un grande amatore, come no. Sperduto. Sperduto, è bellissimo questo aggettivo, non l'avevo mai sentito dai miei ospiti. Sperduto. Allora, ricercatore non è uno scienziato, non ha a che fare con i laboratori di ricerca, ma è probabilmente una condizione esistenziale la tua. Certo. Di chi ricerca. Allora, è il ricercone era sperduto, no? E lui è Raz Degan, modello bellissimo, israeliano. Raz Degan, israeliano. Dopo 15 anni di Raz. Perché in ebraico Raz vuol dire sì. Correre, ah. Raz vuol dire segreto. Siamo completamente... Ah, è completamente diverso, sì. Cioè la S e la Z, come anche sì. In italiano. La Z pronunce... è il T, perché voi mettete un T sì. Che non c'è. Segreto. E noi cercheremo di scandagliare il segreto che si nasconde dentro Raz Degan. Fra le altre cose, Raz, il fatto di essere israeliano, tu sei nato... In un kibbutz, che è, per chi non lo sapesse, una sorta di, non proprio una comune come è stata da noi negli anni 70, ma una comunità dove si condivide un po' tutto, proprio dove una si comunità cresce insieme, è, no? È il vero proprio puro comunismo, dove tu non devi chiudere la chiave, la tua porta, dove c'è una macchina che ti serve, prende la chiave, prende la macchina. Se vuoi andare a mangiare, entri nella mensola e prendi quello che ti serve, o al negozio si prendono. All'inizio degli anni dividono... in base ai raccolti dell'anno precedente il beni del logo del kibbutz e danno punti ai membri del kibbutz. Tu ce l'hai questi punti che puoi sfruttare per il tuo cibo, comodità, studi o varie altre cose che ti affascinano, che ti ispirano. Ma mi pare che anche in Israele però stiano un po' scomparendo, no? Stanno morendo, sì. Era un sistema che ha cominciato subito dopo la Seconda Guerra Mondiale e che durava anni 40, 50, 60, 70, 80 perfettamente, e come abbiamo visto negli anni 90 già hanno cambiato rapidamente, soprattutto dopo 2001, il sistema in cui funziona il nostro cervello è proprio cambiato. Siamo circondati di un sacco di immagini oggi, vediamo troppo informazione, cerchiamo di mantenere la nostra piccola testa e... insomma andiamo fuori di testa. Senti, e così anche la sistema della kibbutz, certo. È andata completamente fuori da dove è iniziata. E per te che cosa ha significato Raz Degan nascere, crescere in un kibbutz? Libertà, gioia, un sacco di coraggio da confrontare qualsiasi cosa che mi è venuto e sicurezza, perché comunque i problemi si risolvono là, non arrivano figure esterni, non ce l'hai il problemi che magari uno che cresce nella città può avere. E sei circondato da amici della tua età o dei genitori che sono amici del tuo che possono prendere cura di te se sei piccolo o hai bisogno di una cosa. Quindi c'è grande solidarietà anche, no? Sì, però nell'altro lato c'hai il libero mente di pensare, di sognare, soprattutto là quando sono nato negli anni 60 e tu 70. Nel 68, no? Sì, proprio in quel momento là. Un momento cruciale. E poi Raz, appunto, è nato in Israele, quindi ha seguito un po' il suo iter dal kibbutz, poi tra i 18 e i 22 anni ha fatto il servizio militare, perché sì. Lì dura 3 anni, no? Tre anni, 18 fino a 21. A 21 ho partito con una grande, grande voglia di scoprire il mondo, con poco soldi e niente di più. Sono andato prima in Thailandia, ho passato 2 mesi in Thailandia, finché è finito il soldi, e di là sono tornato in America a cercare lavoro, ho passato un po' di lavori, vari tipi di lavori per un giorno e poi mi ha portato a New York, ho finito a New York a lavorare come una barista in un locale di moda e di là mi... Qualcuno ha detto come sei bello. No, una persona che lavorava in un'agenzia di moda mi ha chiesto di passare, mi ha dato il suo biglietto, mi ha detto perché non mi passo a trovarmi il pranzo. Sono passato e parliamo degli anni 90, che sono quasi 20 anni fa. Mamma mia. È passato là e ho conosciuto questa signora e che mi ha spinto da fare questo lavoro di modello. I primi 2 anni erano un po' tosti, vivevo a New York, non avevo soldi, dormivo in vari buchi. Quindi anni difficili? No, difficili, ma comunque sei giovane, non hai paura di niente, vuoi vivere questo tipo di realtà e sei pronto anche a fare quello che deve fare. Non avevo anche una casa, mi ricordo i 2 o 3 mesi proprio di vivere come un vagabondo, girando così. Poi una cosa o un'altra, 2 anni passano, 92 arriva, la musica cambia la moda, la musica è il tempo dei Nirvana, dei Pearl Jam, Alice in Chains, entra tutta questa storia del Wave, Kate Moss. Ero nel tempo, nel momento giusto. Sì, ero a Los Angeles, mi ricordo, e boom, sono saltati in aria alcune pubblicità, alcuni testimoni, da niente, proprio da niente, vivevo nella macchina. Pagato i miei debiti e sono andato a Parigi, la moda andava bene, ho fatto parecchie pubblicità in giro per il mondo. Lì ho conosciuto la mia fidanzata all'epoca, sono andato a vivere un po' in Australia, ho cominciato a viaggiare. Girato il mondo e anche le copertine delle riviste e anche fatto un sacco di spot di marchi famosissimi. Sì, adesso non stiamo sì. E poi invece in Italia... In Italia, dopo un po' di anni in Parigi lavorando, ho fatto queste 2 o 3 pubblicità per l'Italia. La più famosa era di un amaro famoso. Quell'amaro là. E non sapevo molto del fatto che questa pubblicità ha preso una forma... molto popolare, insomma, sì, c'è stata un'impennata della popolarità diventato questa storia, finché un giorno in Australia una modella che lavoravo un po' di anni prima mi ha detto che devo passare un attimo in Italia perché c'è una cosa inaspettabile, che quando lei va a fare provini nella sua book c'è una foto mia che abbiamo fatto il lavoro insieme. E tutti, per un puro caso hanno visto la tua foto, pensa a volte la vita. E mi hanno detto tu devi venire perché mi chiedono più chi sei tu chi sono io e che cosa posso fare. Ed era un amaro dove tu dicevi questa frase proprio: sono fatti miei. Poi questa storia mi ha portato in Italia, sono venuto per 2 o 3 giorni qua a Milano e stavo 2 anni nello stesso albergo in Milano e poi sono scappato via, basta, non ce la facevo più, non mi gustavo tutto quello che c'era intorno. Allora sono andato a New York, tornato a New York, avevo fatto 4 lire e potevo stare bene senza lavorare, senza pensare dove mangio, tutto il resto. Ho cominciato a studiare recitazione in varie scuole di recitazione in New York. Ecco, però qui, Razdegani, io mi fermerei, lascerei un po' di suspense per come è proseguita la vita di Razdegan, per come è diventato quello che è. Già ci ha raccontato moltissimo in poco tempo. Storielle. Storiacce. Sempre Roberta Giordano con voi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, e con me abbagliante più che mai c'è Razdegan, modello, attore, con un curriculum che ci ha sintetizzato di un ventennio in poco tempo, insomma ha fatto veramente tante cose. E mi dicevi, Raz, mentre parlavamo, che tu adesso hai 41 anni e che non ti sei mai sentito così forte e equilibrato come adesso. Mai, non lo so, è capitato qualcosa strano quest'anno. Mentre l'anno scorso lo sentivo veramente come un cane. Ah, quindi solo di distanza merda, di un anno. Sì, una crisi esistenziale, stavo male, non potevo più trovare il mio accento. E sapresti dire perché? Perché è successo? Non lo so, ogni tanto cercare il motivo e guardando fuori è impossibile. Uno deve un attimo fare un pausa e chiudere l'occhio, respirare e guardare dentro e trovare che tutto è a posto. L'ho fatto questo per un po' di mesi adesso. Ci sei riuscito a trovare. E sono riuscito a trovare il centro che è diventato un po' scuro. E questo mi ha dato un grande carico, diciamo, positivo, artistico, vivo. Sento proprio questo amore per la vita, che è una grande gioia, perché alla fine più semplice è la cosa, più stai bene. Più complicato diventi, perché cerco sempre di arrivare, e tua testa diventa proprio come una bomba atomica, non arriva a nessuna parte, solo deve avere una testa che non funziona, uno sbilanciamento tra i tuoi chakra, vai fuori. Quindi il tuo segreto è la semplicità, anche se tu stai facendo... L'amore, semplicità e verità. Anche se Razdegan ha appena fatto il film Barbarossa di Martinelli, Renzo Martinelli, tu fai Alberto da Giussano. Faccio Alberto da Giussano in questo condottiero lombardo che per alcuni è l'eroe, che poi è diventato un po' icona anche, diciamo, dal punto di vista politico per una certa parte. Dall'altro qualcuno dice che è soltanto una leggenda popolare che ha preso man mano piede. Insomma, comunque tu sei qui in carne ed ossa, Razdegan, e questo è il tuo personaggio nel Barbarossa. Sì, io avevo il piacere di lavorare su un personaggio che non c'è molto documentazione, è difficile trovare nell'archivio storici delle testimonianze veramente concrete. No, insomma, allora dovevo usare molto la mia imagination. Facendo 4 mesi prima del film di ricerca sull'epoca e su, non lo so, modo di vivere, di mangiare, di lavorare, di dormire, di camminare, il ritmo del tempo, il peso del tempo. Sai, all'epoca là, parliamo 1100 passi, la gente muoiono, si morivano dal fame, siamo, si morivano dalla malattia, secolo. Si morivano dalla battaglia, si morivano a destra e a sinistra, per cui uno doveva essere anche abbastanza forte dentro e fuori. Allora era tutta la questione della fisicità del personaggio, mi sono messo, non lo so, erano 9 kg di armatura. Ho imparato cavallo, spada, varie altre cose. Poi sul set era bello perché eravamo un cast internazionale di vari luoghi del mondo, perciò di sera le discussioni erano internazionali, non più puntato su una roba che abbiamo visto in TV ieri. Quindi ampi orizzonti, insomma. Sì, sì. Sì, io questa domanda te la devo fare, Razdegan. C'è in questo film, in Barbarossa, Kasia Smutniak. Sì. E ultimamente, sai, parlando di gossip, insomma, si era parlato di una possibile così relazione tra voi, poi con Paola Barale non si capisce se siete ancora insieme con Paola. Ma non è che il gossip deve penetrare a qualsiasi livello della nostra vita. No, perché... però tu sai che essendo appunto un personaggio così in vista come te, che fa parte del mondo dello ma spettacolo. Ma io vivo in un trullo, lontano di qua. In Puglia, vero? E passo il mio tempo nell'Himalaya, adesso in India, ma cosa volete appena, da me? Appena arrivato, tra l'altro, mica l'ho visto un po' smortino, stanco, un po' provato dal viaggio, che non so quante ore è durato dall'Himalaya 30 adesso. Qualcosa, sì. Invece è arrivato qui vispo come un grillo e... Quindi vabbè, allora... Lasciamo questa stare. Cosa la lasciamo, sono fatti miei, come dicevi in quella sono famosa miei, sì. Pubblicità. Ritorniamo all'Acto Studio, quindi tu sei stato modello per un po' di anni, poi... Pochi anni alla fine, mi hanno messo anni. Questo label, questo etichetto, da... strano, perché l'ultima foto che ho fatto servizio era 96. E si vede che hai lasciato il segno però, eh? No, si vede che siamo tutti etichettati, questa è una cosa grave. Come vorresti essere definito, Razdegan? Guarda, la problema è più basica, perché al momento che viviamo il mondo verbale, prendiamo la parola come la cosa. Le parole non sono la cosa, io ripeto spesso. Però sono sostanze. No, le parole sono indicazioni, ok? Ma non so, ho sette. Sì. Ma non è che la sensazione che hai quando hai sette. Però sette, se io ti dico sette. Ti amo, per esempio, questa l'amore, cosa ha un impatto va bene, perfetto, forte, no? Dici ti amo, ma cosa vuol dire ti amo? L'amore, lo sai cosa vuol dire veramente? Tu lo sai cosa vuol dire? Sto cercando di capire. Sì. No, al momento, allora, perché tutto deve essere, diciamo, avere il suo label? Tutto questo, sopra, sotto, destra, sinistra, questo è buono, questo è cattivo. È una questione di economia mentale, forse si ha bisogno tutto condizionato, no, di avere punti di riferimento. E qua in Italia è un paese che per rompere un'immagine o cambiare un attimo una idea... È difficile, è difficilissimo. Sì. È peccato. È molto peccato perché uno va già nella mente impostato senza capire di cosa stanno parlando, di che argomento veramente è, che una cosa che magari può essere buona per la sua crescita non farà mai perché ha sentito o ha messo un'immagine sbagliata su quello che è. L'esperienza è più importante della parola. Tu hai fatto tante esperienze perché hai girato molto per il mondo, no? Ho girato e ho cercato di eliminare tutte le parole che sono raggruppate dentro la mia mente, che erano i blocchi miei della crescita. Però tu devi capire che queste parole sono solo il meccanismo della mente, non essere così attaccato a queste parole, non prenderli come la parola del Dio eterno. È vero che Raz basta uno sguardo che già dice tutto. Meglio non parlare, meglio sentire, guardare negli occhi, non credi? Credo proprio di sì. Raz, comunque, quindi hai fatto l'Acto Studio, tu hai voluto studiare seriamente a New York per fare l'attore, hai avuto prima una piccola parte da Robert Altman in Prêt-à-porter, poi vari altri film per arrivare ai 100 chiodi di Herman Nonni, un maestro del cinema italiano, hai fatto anche Alba Chiara e poi dicevamo appunto Barbarossa, l'ultimo. No? È quello che vuoi fare il cinema comunque? Sì, però in questo momento mi piacerebbe fare il cinema che è più vicino al momento adesso attuale, sull'attualità, quindi sì, non per forza ci non costume più, no no, questo è bello, l'experience, tutte le esperienze ti portano ad avere adesso un bisogno da fare qualcosa, perché se non fai esperienze non hai questa urgenza da fare un'altra. E in questo momento sento che progetti banali o progetti che non hanno nessun sostanza, nessun crescita o nessuna indicazione di nessun verità, non mi interessano. Non mi interessa la televisione, non mi interessa la internet, non mi interessa i giornali, non mi interessa niente di quello che vedo superficiale a livello del nostro, diciamo, chiacchiera sociale. Mm-hmm. Vedo come un tempo perso, peccato, perché viviamo veramente in tempo che sta chiusendo questo ciclo di karma che stiamo vivendo tutti anche senza saperlo, perché viviamo così, sta terminando questo movimento che sentiamo in giornale, in televisione, questo 2012, 21 dicembre 2012. Parla della fine del mondo. Poi, sì, insomma, ma un affatto veramente, un affatto vero. Possiamo vedere a destra e a sinistra che ce n'è sempre più problemi. Non è che la cosa va andando meglio. Vediamo che c'è crisi dell'economia, crisi della natura, crisi dell'acqua, crisi esistenziale, crisi di qua, crisi di là. Vediamo che dal momento che alziamo la mattina, boom, si svegliamo, già c'è la guerra. Prima da scendere da letto già c'è una guerra interna, sappiamo tutto il giorno quello che dobbiamo, entriamo in macchina, 300 caffè, arriviamo, vediamo il nostro capo che non vediamo neanche vedere. Tutta la giornata... l'ansia, ma sì, effettivamente l'ansia. Si vive così. Allora, l'ansia è una cosa che ci abbiamo tutto dentro in maniera tremenda. E dici, come fine del mondo? Il fine del mondo non è quello che ti fanno vedere la televisione, non è quello che ti fanno leggere la internet, non è quello che tu puoi chiacchierare mangiando pasta con i tuoi amici. Il fine del mondo è un cambia d'energia, della coscienza tua. E per sentirlo, per essere più collegato a questo, tu devi prima capire come funziona la testa, come funziona il meccanismo dei tuoi pensieri, come sei così debole dentro a qualsiasi stimolo che arriva, che non puoi anche stare 5 minuti senza fare niente. Allora, la mia piccola cosa che posso cercare da inserire dentro alcune persone che ascoltala, prendete 5 minuti alla mattina, prima da scorrere dentro questa giornata orrenda, respirare piano piano, chiudete l'occhio, state là per 5 minuti, sentite bene bene bene come funziona tutto e poi cominciate la giornata. Solo questa pausa di 5 minuti, questa pausa è fondamentale, e di là arriverà un mare di informazione nuovo dentro la tua vita. Tu sembra appunto davvero sinceramente che porti avanti, come dicevi all'inizio, una ricerca interiore, ti sei definito ricercatore. Io, no? Io sì, da quando ho passato, soprattutto, te l'ho detto, l'anno scorso era abbastanza terrificante. Mm. Magari era necessario per arrivare da dove sono partito ieri, da questo monaco che ero con lui in mezzo alla Himalaya, perché senza stare male non è che vai a cercare il bene. Certo. Vivi sempre con l'attesa di una cosa per sentirti meglio. E noi viviamo così, viviamo sempre con in memoria di ieri come era bello e con il desiderio di ripeterlo più tardi, o con la paura di come stavo male o con la paura di non averlo più, ma non viviamo, non siamo mai presenti, è sempre tra il desiderio e la paura, il desiderio di stare bene, il desiderio di stare, di essere famosi, di fare soldi, di essere amati, tutti questi desideri che uno può avere, e la paura di non essere famosi, non essere amati, non essere ricchi, non essere belli, non essere, e anche, e tu come lo superi questo, perché anche tu ce la sentirai questa, perché cosa? Perché da ascoltare la mia mente, da ascoltare come passa tutta questa energia, la paura, i desideri, l'amore, e tutto sono correnti dentro di te. Allora, quando tu hai la possibilità di guardarli, non essere attaccati, non metterti dentro questo fiume, ma guardandolo da lontano, capisci che sono solo correnti che passano dentro di te, non niente altro. Non è che deve stare là a identificarci dentro tutta la tua storia. Poi il tempo più prezioso che hai nella tua vita è sempre adesso. Adesso, per chiudere, la Sdegan, questa che vedi qui è la lampada di Aladino. Sì. Hai detto tante cose così importanti, così vere. Se dovessi esprimere un desiderio, pace per tutto il mondo. Pace, basta con questi passaporti, basta con queste carte di credito, basta con questi giudici, basta con questi, tutti questi clandestini, questo è buono, questo è cattivo, basta a puntare la dita addosso tutti i resti per il nostro malessere, basta trovare che noi siamo tutti uguali, al di là del calore, al di là della squadra di calcio, al di là di dove sei nato, al di là di che luoghi sei stato, basta, e basta trattare questo pianeta come una spazzatura, basta. Basta tutto, perdona tutti, tutti, tutti, di cominciare adesso con un mondo bello. Grazie, Sdegan. Prego. Ciao. Ciao.